Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti di un'altra puntata di Focus Economia. Come chiaramente molti di voi già sanno, arrivata ieri a mezzanotte e un quarto la notizia di un abbassamento, devo dire improvviso, non tanto l'abbassamento, è settimane da quando Moody's a metà giugno, una delle altre agenzie di rating, disse abbiamo messo sotto osservazione il debito italiano, è dalla metà giugno, è da allora che più o meno il mercato si attende o valuta come altamente probabile un abbassamento del nostro voto. Inatteso il tempismo, anche perché nel fine settimana l'altra grande agenzia di rating, sono tre, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, aveva detto aspettiamo ancora un mese perché la situazione politica italiana è così complicata e così delicata sul fronte economico, sul fronte politico, che non diamo adesso il nostro voto. E ieri avevamo commentato dicendo un po' strana come decisione. Beh, ci ha pensato Standard & Poor's a superare Moody's sulla destra, perché l'ha fatto ieri sera a mezzanotte e un quarto. La cosa più interessante, come ricordavamo nel GR, a mio avviso però non è solo l'abbassamento del nostro voto, ma è la reazione della borsa, perché è in rialzo dell'1,88% Milano, come le altre borse europee, un po' meno di Francoforte che guadagna il 2,70, però più di Parigi che ha un grosso problema con BNP Paribas, ha ripreso a calare pesantemente il titolo e Parigi guadagna l'1,36%, Londra più 1,84%, l'America più 1,12%, l'euro a quota 1,37. Dentro il listino poi troviamo titoli anche bancari che vanno sostanzialmente bene. Il Banco Popolare guadagna il 2,60, UbiBanca il 2,50, Mediobanca il 2,16, Intesa San Paolo l'1,70%, Unicredit l'1%. L'unico titolo negativo dei bancari è la Popolare di Milano, meno 0,80%, che però ha anche dinamiche tutte sue. Questo viene spiegato, ma ne parleremo più avanti, da molti operatori, con il fatto che un abbassamento del voto del debito italiano fosse ampiamente atteso. Non era così atteso invece in quegli indicatori che vanno a misurare il nostro rischio paese. Li ricordavamo prima, si chiamano spread da un lato, e quindi la differenza tra quanto rende una nostra obbligazione e quanto rende un'obbligazione tedesca, che è quella più affidabile, e CDS, ossia credit default swaps, il premio che viene pagato sulla polizza per assicurarsi contro il fallimento dell'Italia. Soprattutto quest'ultimo, io ogni volta in maniera un po' impropria lo paragono al premio che noi paghiamo per la polizza auto, no? Più tu sei a rischio, più paghi un premio alto. Ebbene, questo premio è schizzato a un nuovo record storico, ossia 520 punti. Vi ricordo che tre mesi fa, a maggio-giugno, viaggiavamo intorno ai 260-250 punti. Siamo al doppio e siamo a un livello che prima aveva conosciuto il Portogallo, che nel frattempo è salito, ma siamo a un livello altissimo, 520 punti, nuovo record. Ieri erano 489 i punti. E questo è il fronte, diciamo, della reazione dei mercati. Poi c'è il fronte della reazione politica, e qui avremo un'ampia pagina perché va bene dire tutto, ma dire che insomma che la colpa dell'abbassamento del voto al debito italiano è dovuta a quello che leggono le agenzie di rating sui giornali italiani, mi sembra una spiegazione che si commenta da sola. Tra l'altro, a maggior ragione, meno di mezz'ora fa il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso tutte le previsioni sulla crescita mondiale, portando quelle sull'Italia allo 0,3% l'anno prossimo. Confindustria ha previsto uno 0,1, 0,2 o forse 0,3, adesso vado a riprendermi il dato. Quindi insomma ormai anche OCSE ha una previsione analoga. Ormai l'anno prossimo da tutti i maggiori istituti nazionali e internazionali viene visto come un anno di stagnazione economica. L'elemento più importante a mio avviso è questo, cioè se tu sei in stagnazione economica l'anno prossimo è chiaro che, visto che il rapporto deficit PIL e debito PIL è un rapporto, cioè c'è un numeratore e un denominatore, come si diceva a scuola, se il denominatore si riduce aumenta il valore del rapporto, no? e quindi questo porta a un deficit più alto del previsto e a un debito più alto del previsto, tant'è che il Fondo Monetario Internazionale dice l'anno prossimo voi avrete un debito che sarà al 121% del PIL, 100,1%, il deficit PIL quest'anno sarà il 4%, l'anno prossimo calerà al 2,4%, che è un buon dato, però appunto il debito resterà al 121,4%, salirà un po' anche l'anno prossimo, anche nel 2012, inizierà a calare solo nel 2013. Il problema del nostro paese, ricorda anche il Fondo Monetario Internazionale, è la bassa crescita a questo punto, non solo il contenimento del deficit, che è la critica più forte che è stata mossa a questa legge finanziaria, laddove si dice bene la riduzione del deficit prevista, pur con i mancati trasferimenti ai comuni, pur con l'aumento dell'IVA, si potevano prendere altre misure. Noi spesso abbiamo detto che sarebbe stata forse meno dolorosa l'aumento dell'età pensionabile per le categorie di lavori non usuranti, qualche liberalizzazione in più, qualche giro di vita in più sulla lotta all'evasione fiscale. Però quello che manca completamente nella finanziaria, e lo diciamo noi, lo dicono tutti, i commercianti, gli industriali, tutte le categorie produttive, è la parte relativa alla crescita. Vuoi liberalizzare, vuoi mettere in concorrenza questo paese? Lo 0,5% che stima Confindustria come crescita dell'economia vuol dire 8 miliardi a fronte di liberalizzazione. Questo è assente. Il ministro Tremonti oggi ha lanciato un piano decennale per la crescita, modestamente a noi basterebbe un piano annuale per la crescita, perché i piani decennali ricordano altri mondi. Piano decennale per la crescita, incaricato di scrivere il quale sarà Ignazio Visco della Banca d'Italia. E poi Tremonti ha detto dobbiamo fare marketing per l'Italia, serve un po' di allure che ci dia il respiro di grandi opere. Ci permettiamo di ricordare che per fare marketing dell'Italia, o chi può fare il miglior marketing per questo paese, è proprio il governo, dal Presidente del Consiglio in giù, e questo è il marketing migliore che si può fare. Mi sembra che gli imprenditori, visti i dati sull'export e i loro dipendenti, stiano facendo un ottimo marketing per l'Italia, però poi, come lamenta Emma Marcegaglia, veniamo accolti all'estero con sorrisini di sufficienza, perché anche all'estero i giornali riportano le vicende italiane. Certo, una soluzione ci sarebbe la soluzione di non riportare, di chiudere i giornali, oppure insomma di non riportare quello che avviene, ma c'è un piccolo problema. Ehi, Hutchison, questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente, niente. Oppure ha ragione un ascoltatore che scrive con una certa capacità di analisi: il Fondo Monetario Internazionale è composto da vetero comunisti così come Standard & Poor's. Può essere che sia questa la spiegazione. Incredibile che ci siano tutti questi comunisti quando non c'è più il comunismo. Addirittura il Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, nota comunista francese, Strauss-Kahn, noto comunista francese che lo dirigeva prima, e Standard & Poor's, nota agenzia di rating in mano a noti comunisti di Wall Street. Andiamo avanti con le altre notizie in breve, poi veniamo alla situazione sui mercati e anche alla situazione greca, perché non c'è solo l'Italia oggi. Oro in rialzo a $1,785, ma sempre sotto il record, quindi sempre sotto i $1,800. Petrolio $86,20 il barile. La Bank of China, come anticipavo, una delle quattro grandi banche cinesi, ha provvisoriamente sospeso le operazioni con tre banche francesi, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, e anche con la Svizzera UBS, quella a cui un operatore ha creato un danno di 2,3 miliardi di euro, a causa dell'aggravamento della crisi del debito in Europa. Altro che aiuto cinese qua. E poi il Giappone dice: però siamo pronti noi a comprare debito europeo, lo ha detto il premier Yoshihiko Noda, scusatemi ma il giapponese non è mio forte, in un'intervista a Wall Street Journal del Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al ribasso tutta la crescita mondiale, più 4%, in Europa si crescerà l'anno prossimo non oltre l'1,1%, noi però faremo un quarto di questa crescita, cioè faremo lo 0,3%. Abbiamo già detto e torneremo sul tema. C'è il piano decennale annunciato da Ministro Tremonti, che appunto, ripeto, dobbiamo fare marketing per l'Italia, fare marketing per l'Italia, marketing, non marketing, marketing. Una buona notizia arriva dal fatturato a luglio, fatturato dell'impresa italiana, più 1,6% sul mese di giugno, più 4,5% sull'anno prima, quindi gli ordinativi anche industriali sono cresciuti del 6,5%. Io lo dico, abbiamo criticato le imprese per tanti motivi, perché sono troppo piccole dimensionalmente, perché hanno perso delle volte l'occasione con la Cina, ma in questo momento i dati migliori che abbiamo dal punto di vista economico arrivano proprio dal mondo delle piccole, medie e anche grandi imprese italiane. Sul fronte dell'export, vedere che gli ordinativi hanno fatto un 6,5% vuol dire che queste imprese, la parte diciamo più esportatrice del paese, sta lavorando bene. E allora, queste le notizie principali. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666. Altri ne leggeremo più avanti. La democrazia crea solo caos, basta un po' di dittatura. Vabbè, appunto, sempre nell'ottica dei giornali che non devono riportare le notizie, che poi addirittura saranno impulsi sulla base dei nostri giornali dal giudizio sul debito. Mamma mia. Ne parleremo nella seconda ora del programma con l'ex numero uno di Fitch, una delle tre agenzie di rating. Da poche settimane si è dimesso, per capire se è vero che poi le agenzie di rating, con tutti i limiti che hanno, con tutti i conflitti di interesse che hanno, col fatto che hanno degli azionisti che poi investono anche loro, con tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, ma immaginare che gli operatori di Standard & Poor's, Moody's e Fitch si muovano solo perché leggono, non so, La Repubblica, Il Manifesto, L'Unità, Dagospia, mi sembra una follia. Comunque, intanto è un periodo in cui ci stiamo facendo il callo. 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema, la bocciatura di Standard & Poor's. Non solo ha abbassato il voto, che è la cosa più importante, da A più ad A, ma con un outlook negativo, cioè le prospettive sono negative. Praticamente i motivi non sono la lettura dei giornali, ma gli obiettivi di bilancio fissati nella manovra a partire dai 60 miliardi di risparmi sono difficili da raggiungere, questo dice il rapporto di Standard & Poor's. Il tentativo di risposta politica del governo italiano alle recenti pressioni dei mercati suggerisce il prosieguo di un'incertezza politica sui mezzi con cui affrontare le sfide economiche dell'Italia. Per l'agenzia di rating, per Standard & Poor's, infatti, le autorità italiane restano riluttanti ad affrontare le questioni chiave, come gli ostacoli strutturali alla crescita, il basso tasso di partecipazione al lavoro e mercati dei servizi e del lavoro troppo strettamente regolati, ossia non liberalizzati. Il risultato è che aumentano i rischi per cui il già elevato debito pubblico italiano possa aumentare ancora. Rischi confermati dalla stima uscita poco fa del Fondo Monetario Internazionale, che vede un debito in leggero aumento anche l'anno prossimo. E in questo caso venissero confermati i rischi di un debito che continua a scendere, chiude e chiosa Standard & Poor's, potremmo abbassare nuovamente il voto di lungo e di breve termine del vostro paese. Come sono messi gli altri paesi? Allora, la AAA in Europa ce l'hanno Olanda, Svezia, Francia, Gran Bretagna e Germania. La AA+ ce l'ha il Belgio, La doppia A c'era la Spagna, che è messa meglio di noi. Noi avevamo la più, l'abbiamo persa, siamo ad A. E subito dopo di noi, cioè a meno, ci sono Portogallo e Irlanda. Quindi siamo un gradino sopra Portogallo e Irlanda. Un gradino sopra Portogallo e Irlanda. Ma evidentemente anche in Portogallo e in Irlanda i giornali, le radio, le televisioni hanno contribuito a dare una cattiva impressione del paese. Quindi le agenzie di rating gli hanno abbassato il voto. E poi la tripla C c'era la Grecia, anche qui complici i giornali greci, di facile lettura chiaramente. Ai ai ai. Allora, sentiamo cosa ha detto poco fa in conferenza stampa Standard & Poor's. Ha fatto una conference call con mezzo mondo, tutta la stampa internazionale collegata. Meritz Kramer è l'analista che ha tenuto, diciamo, che ha interloquito con operatori e giornalisti. E tanto per rassicurare ha detto: beh, c'è un serio rischio che vi abbassiamo di nuovo il voto entro 12 mesi, quindi finirete come Irlanda e Portogallo. We have taken the decision yesterday to change the rating to the downside and the outlook remains. Ieri abbiamo deciso di abbassare il rating e l'outlook resta negativo. Ciò indica che nel corso del prossimo anno potremmo considerare se esiste un ragionevole rischio di tagliare di nuovo il rating. La ragione per l'outlook negativo è che notiamo rischi al ribasso per le finanze pubbliche, a cui si aggiungono deludenti prospettive per la crescita economica. Vediamo un'economia che cresce debolmente. Le previsioni di crescita sono dimezzate da qui al 2014 a un tasso medio dello 0,7%, e c'è stata una revisione fortemente al ribasso. Le cause sono da una parte un calo della domanda esterna di beni e servizi italiani sulla scia del rallentamento dell'economia europea e mondiale. Dall'altra parte ci aspettiamo un calo anche della domanda interna per effetto delle misure di austerità che verranno introdotte. Il rating dell'Italia resta un rating molto forte. I nostri studi sui default mostrano che finora sui debiti pubblici non c'è mai stata una insolvenza nella categoria A. Non bisogna fraintendere il significato del declassamento sull'Italia, non significa che riteniamo che l'Italia sia a rischio di insolvenza. Anzi, la nostra valutazione A è di livello elevato e quella di un default resta una possibilità molto remota. Tuttavia, i rischi al ribasso sono ben presenti e se il debito cresce ulteriormente, potremo tagliare ulteriormente il rating entro i prossimi 12-18 mesi. We could lower the rating again within the next 12 to 18 months. Allora, questo è il giudizio di Moritz Kramer nel corso della conference call con tutti gli analisti. Interessante, mentre saluto e ringrazio il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo, per averci raggiunto in studio. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. La domanda per te sarà molto semplice: come mai, per fortuna, la borsa ha reagito bene, male gli spread, male i CDS, bene la borsa? Però vorrei, per dare, insomma, la cifra di chi faccia più danni, se fanno più danni i giornali con i loro titoli o certe dichiarazioni della politica, ognuno può pensarla come vuole. E vorrei dirvi e raccontarvi adesso come ha reagito la notizia, arrivata ieri a mezzanotte e un quarto, come è arrivata, come ha reagito la classe politica a partire dal governo a questa notizia. Preciso che il mio giudizio sulle conflitti di interesse delle agenzie di rating resta invariato, le abbiamo attaccate, continueremo ad attaccarle. Quello che sto commentando è come un governo che si vede abbassare il voto per variabili che poi vengono confermate dal Fondo Monetario Internazionale reagisce. Allora, la prima dichiarazione alle 8.46 di Palazzo Chigi dice, insomma, il governo è solido, ci sono le misure per la crescita e le valutazioni di Standard & Poor's sembrano dettate più dai retroscena dei quotidiani che dalla realtà delle cose e appaiono viziate anche da considerazioni politiche. Hutchison, questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. Poi rincara la dose alle 12.22, Standard & Poor's che risponde al governo italiano, giusto per mantenere rapporti sempre molto dialettici, e dice: attenzione, i debiti, i voti ai debiti sovrani di Standard & Poor's sono valutazioni apolitiche e prospettiche sul rischio di credito forniti agli investitori, cioè tutti quelli che hanno comprato il nostro debito. Ma poi ci pensa Cicchitto a rasserenare gli animi, perché dice in una nota il capogruppo del PDL alla Camera sul giudizio di Standard & Poor's pesano i comportamenti della sinistra e dei PM. Notoriamente le agenzie di rating sono attentissime a quello che fanno i nostri PM e alle inchieste in corso. Allora, mosca cieca mi sembra questa. Andiamo avanti, perché poi invece il capogruppo della Lega alla Camera, Marco Reguzzoni, sentiamolo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, oggettivamente dà un'analisi un po' più articolata. Ascoltiamo Reguzzoni. È ancora una prova che serve stabilità a questo paese, serve soprattutto quello che la Lega chiede da tempo, cioè un provvedimento sull'economia che serva a dare impulso alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Giudizio, diciamo, che ci aspettavamo, quasi scontato, è successo agli Stati Uniti d'America, succede a tutti i paesi in una congiuntura economica così difficile, ma proprio per questo motivo occorre fare quelle riforme che consentano di far ripartire la nostra economia. Noi dobbiamo essere tutti più ottimisti, credo che anche i giornali e le televisioni debbano iniziare a trasmettere qualcosa di positivo e non sempre solo critiche, altrimenti il nostro paese non ripartirà mai. E poi il vicepresidente vicario del gruppo PDL al Senato, Gaetano Quagliarello, commenta l'abbassamento del rating. Io immagino che Quagliarello, lo dico senza nessun tipo di ironia, conosca bene come si forma un rating, come si forma un giudizio sul debito. Ascoltiamo allora la sua valutazione. Hanno voluto influire sul nostro sistema politico e non certo contestare la capacità e la volontà del Paese di pagare il suo debito. Così reagì il presidente Obama dopo il declassamento dell'America. La stessa cosa vale oggi per l'Italia. La speranza è che il nostro paese sappia reagire a una decisione ingiusta. Come? Come reagire? Andiamo in strada, facciamo gli striscioni contro Standard & Poor's, che ripeto ha 2000 limiti come ce li hanno Moody's e Fitch, non sono delle verginelle le agenzie di rating, e poi ne parleremo. Ma dico, quando Obama disse è una decisione ingiusta, va bene, il mercato continuò a penalizzare Wall Street, tant'è che ha dovuto poi annunciare Obama 400 miliardi di riforma del mercato del lavoro, e poi l'ultima riforma di ieri, ossia la tassazione, la tassa Buffett sui milionari, per essere più creduto. Vorrei sapere da Quagliarello come si reagisce. In un mondo normale si reagisce facendo le riforme, mettendo in piedi degli strumenti che permettono al paese di crescere, aiutando la liberalizzazione, contrastando l'evasione, riducendo gli sprechi della classe politica e tutto un insieme di cose. Così si reagisce in un mondo normale, però magari ha altri strumenti. Chiudiamo Standard & Poor's, suggerisce un ascoltatore. Interessante. Allora, andiamo col metro, la pubblicità, perché poi... Ah no, però vi faccio sentire Emma Marcegaglia, perché su questo, sull'attacco alla stampa e i motivi che hanno portato all'abbassamento di voto, la Presidente Confindustria è andata giù durissima. O il governo è in grado domani, nella prossima settimana, di varare una serie di riforme serie, forti, impopolari, che creino una discontinuità chiara sui mercati, oppure questo governo deve andare a casa. Io l'ho detto chiaramente, non ho paura di dirlo, perché è evidente che è così, no? È evidente che è così. Hutchison, questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. E poi sempre Emma Marcegaglia, l'Italia è un paese serio, siamo stufi di essere lo zimbello internazionale, lo zimbello internazionale. ha parlato al Cersaia di Bologna, la fiera delle piastrelle, dove l'Italia è leader a livello mondiale, cioè stiamo parlando di centinaia di milioni di export, non noccioline. E ha detto, piastrelle ceramica chiaramente, e ha detto, non vogliamo dunque, sottolineo e registro il malessere degli imprenditori italiani che quando vanno all'estero con i loro prodotti sono stufi di essere considerati con il sorrisino, perché siamo gente seria che vuole essere giudicata su quello che fa e sui prodotti. Non vogliamo essere derisi per colpe che non abbiamo. Che si riferisse anche alla Marcegaglia e alla stampa, non penso, penso che si riferisse ad altre cose. E adesso lancio veramente il meteo, però non prima di aver ricordato quella che secondo me è una chicca bellissima, cioè il ministro Tremonti che avrebbe detto nell'incontro con alcuni soggetti per ragionare su come si fa, lancia un piano decennale sulla crescita, e infatti questa dichiarazione di Tremonti, piano decennale per la crescita, incaricato Schivolo e Ignazio Visco da Banca d'Italia, dobbiamo fare marketing per l'Italia, dobbiamo fare un po' di marketing per l'Italia, serve un po' di allure che ci dia il respiro di grandi opere. E chi lo fa questo marketing? Se vogliamo fare marketing e non marketing, Moria Longo, chi lo fa questo marketing? Meteo! 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso cerchiamo di capire perché, per fortuna, la borsa abbia reagito bene e invece diversamente è andato su CDS Spread. Una risposta però a chi scrive al 349-238-6666. Ognuno la pensi come vuole. Nessuno ha mai detto in questo programma che le agenzie di rating siano delle sante, che non siano piene di conflitti di interesse. Le abbiamo attaccate e le riattaccheremo nella seconda ora, perché vorrei anche capire se non si stiano muovendo in concerto con altri interessi, cioè può far comodo attaccare l'Italia, avere un'Italia a prezzi di saldo, andare a comprare a prezzi di saldo, prendersi pezzi del paese, non è che la cosa ci sfugga. Quello che si sta dicendo è che nel momento in cui ti abbassano il voto, è come se un insegnante ti dà un voto negativo. Quell'insegnante potrà avere mille difetti, ma è normale reagire dicendo che è colpa della stampa? Lo chiedo a chi mi dà del bastardo, del lurido, del comunista, insomma di tutto sto leggendo. Non tutti, ma è normale? C'è chi dice sei un disco rotto. A me che rotto sembra il paese più che il disco, però è normale reagire dicendo che è colpa della stampa? È normale dicendo che, come dice il ministro Tremonti, occorre un po' di marketing? È arrivato poco fa l'illuminante Calderoli, il ministro della Repubblica, che dice che uno Stato debba essere giudicato da un privato mi sembra discutibile. E adesso se ne accorge Calderoli che ci sono le agenzie di rating? Cioè, ma voglio dire, è normale reagire così? Normale sarebbe dire, signori, non siamo d'accordo con Standard & Poor's, ma andremo avanti con le riforme, con il piano per la crescita, tagliando i costi, facendo la lotta all'evasione, riducendo i costi della politica che sono scomparsi, riformando la pubblica amministrazione, aumentando l'età pensionabile. Questo sarebbe normale, non dire che Standard & Poor's reagisce così perché leggono i giornali italiani ed è colpa dei PM, per favore. Comunque, chiudo e partiamo col secondo tema. Moria, come mai la borsa è andata bene e invece cosa è successo agli spread e ai CDS, cioè agli indicatori principali che misurano in un caso a livello pubblico, nell'altro caso a livello privato, il rischio percepito sul nostro debito? Allora, la reazione è stata in un primo momento negativa un po' su tutti i mercati, anche le borse scendevano, ma poi la reazione è rientrata, le borse sono diventate positive, gli spread e i CDS sono comunque calati rispetto al massimo toccato in mattinata. Questo perché? Perché di fatto la notizia di Standard & Poor's è una non notizia. Standard & Poor's, a prescindere dal fatto che tutti si aspettavano un declassamento, anche da parte di Moody's, Standard & Poor's nel comunicato stampa non ha detto nulla che il mercato non sapesse già. Ha detto che l'Italia ha un debito pubblico elevato, pari al 117% del PIL, lo sapevamo tutti, che le prospettive della crescita economica stanno calando, loro stimano uno 0,7% di crescita del PIL quest'anno. Questa è la stima che più o meno fanno tutti gli uffici studi nell'ultimo mese, quindi non ha detto nulla di nuovo. Ed è ovvio che se l'economia cala e il debito rimane alto, è un problema gestirlo. Poi ha detto pure che c'è un problema di aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, questo è sotto gli occhi di tutti. È ovvio, qualunque famiglia sa che se aumenta il tasso di interesse e diminuiscono le entrate perché il PIL cala, è difficile onorare un debito, è come se una famiglia avesse un mutuo, aumentasse la rata e diminuisse lo stipendio. Non ci vuole un genio per capire che diventa più difficile. E le agenzie non sono certo dei geni, hanno preso cantonate storiche da Parmalat a Lehman Brothers. E in questo caso hanno detto, direi, delle ovvietà, delle cose che tutti sanno. Poi hanno aggiunto il fatto che c'è l'instabilità politica, ma questo è sotto gli occhi di tutti, in Italia ma anche in Europa. Basta vedere sembra il che dibattito... il governo sia andato sotto al Parlamento oggi due volte per colpa nostra, dai ragazzi, su. Appunto, prego. Quindi il motivo per cui il mercato non ha reagito, tranne un po' di reazione iniziale, poi un po' sugli spread, è semplicemente questo, che non ha aggiunto nulla, sta Standard & Poor's, a quello che già il mercato sapesse. Anzi, direi una cosa di più, il mercato è molto più pessimista di Standard & Poor's, perché se si va a vedere i livelli di spread comunista, che ci sono... Comunista, Moria, sei un comunista. Se si va a vedere i livelli di spread, il mercato è comunista, allora io sto semplicemente riferendo. Se si va a vedere, se si va a vedere il livello di spread dell'Italia, per esempio sui CDS che sui 500 punti base, cioè si va i credit default swaps, cioè il premio che uno paga per assicurarsi sul rischio debito paese. Esattamente. Se si va a vedere com'è prezzata l'Italia, che livello ha l'Italia, si scopre che è pari a livelli di paesi come l'Ungheria, come altri paesi, che hanno un rating molto più basso dell'Italia. Questo per dire cosa? Che il mercato è già impostato su una situazione peggiore. No, questo è un passaggio fondamentale, così poi alcuni soloni che scrivono poi possono fare un ragionamento. E cioè, quello che il mercato reputa essere il nostro rischio, quello che paghiamo come differenza tra il rendimento del nostro debito e cioè quanto tocca offrire noi per trovare dei sottoscrittori, quanto tocca offrire la Germania e quanto tocca pagare per assicurarsi contro il rischio Italia come premio, è più alto di paesi che hanno un voto più basso del nostro? Esattamente, esattamente. Per quindi, esempio, siamo i nostri livelli di rischio percepiti al mercato sono su livelli, per esempio, del Vietnam, di altri paesi che hanno rating ben più bassi di quelli dell'Italia. Questo cosa vuol dire? Che il mercato in questo periodo, un po' per problemi dell'Italia, ma soprattutto per i problemi dell'Europa e soprattutto per i problemi della Grecia, che non si riesce a salvare in nessun modo, non si trova la quadratura del cerchio sulla Grecia, ha paura per la tenuta dell'Europa, per la tenuta della Grecia e quindi a cascata di tutti i paesi che hanno qualche problema, tra cui l'Italia. È per questo che il mercato non ha reagito oggi, perché il mercato è già più avanti di quello che dice l'agenzia di rating. Sì, con una quotazione di alcune banche, cito le due principali, Unicredit, che pure oggi hanno guadagnato qualcosa, Unicredit e Intesa San Paolo a livelli, Intesa è ancora sotto un euro per azione, ha guadagnato oggi l'1,70, Unicredit... vediamo se la becco, eccola qua, più 0,49 a 71 centesimi di euro, quotano la metà dei mezzi propri, è chiaro che il mercato sia scettico su di noi, ma ripeto, il problema nella vita è la reazione, cioè non è, ti può giudicare un professore che è un professore che è ignorante, pieno di conflitti di interesse, non gli stai simpatico per mille motivi, ma il problema è come reagisci, se reagisci dicendo che lui è un incompetente, Pluto, giudeo, massone, secondo me non vai lontano con quel professore e siccome poi i professori ti giudicano finisci anche peggio, tutto qua. Traffico. ...17:50, resta con noi Moria Longo perché vorrei capire ancora un paio di cose. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Al di là del non effetto che abbiamo spiegato sul mercato azionario mentre c'è stato sugli spread, c'è oggi qualche caso di borsa. Grande attenzione su Fiat, più 7,1% a 4,30€. Poi passiamo anche a Luxottica Generali. Fiat. Fiat ha accelerato soprattutto nel pomeriggio, sono emerse delle novità da Londra dove si è recato l'amministratore delegato del gruppo Sergio Marchionne per incontrare la comunità finanziaria. Il manager ha di nuovo ribadito che la società a fine anno raggiungerà i target precedentemente indicati, ovvero un fatturato attorno a 59 miliardi e un utile di circa 1,7 miliardi. Ha inoltre confermato che Fiat salirà fino al 58,5% nel capitale di Chrysler entro fine anno e ha infine indicato che le operazioni industriali europee dovranno essere portate a break-even entro il 2014. Tutte notizie che hanno dato in là agli ordini in acquisto. Tra l'altro condivido moltissimo quello che ha appena detto Moria Longo e che ribadiscono alcuni ascoltatori, che le agenzie di rating, se vanno criticate oggi, è per il loro grigiore, arrivano sempre tardi, come arrivano tardi con Parmalat, arrivano tardi con Lehman, anzi con Parmalat lasciamo stare perché non arrivarono proprio, e arrivano tardi, cioè si sono adeguate a quelli che sono i valori di mercato sui nostri spread. Ma ci rendiamo conto che è un mese che noi siamo più a rischio della Spagna? Che a 520 punti un CDS, un credit default swaps, era un livello che aveva il Portogallo a maggio? Cioè non so, questo voglio dire, per cui la critica che farei io alle agenzie di rating, la faremo dopo, è che come sempre sono un po' codine, no? Arrivano quando ormai la situazione c'è già, non hanno il coraggio di andare avanti. Questa è la critica che farei io, non a dire che leggono troppi giornali, ascoltano troppi PM. Comunque, ed è giusto quello che scrivono alcuni ascoltatori, che ci vorrebbe anche un'agenzia di rating europea, ma non sarebbe molto più mobile con noi, perché i tedeschi non sono molto più mobili degli americani. Andiamo avanti. Luxottica, Eleonora, più 3,24%. Luxottica, c'è grande attenzione al mondo della moda, domani partono le sfilate milanesi, ma al di là di questo si scommette sul fatto che Luxottica possa aggiudicarsi il contratto di licenza con Armani, almeno questa è l'ipotesi che ha rilanciato Repubblica. Finora gli occhiali di Armani invece sono prodotti da Safilo e lo saranno fino a fine 2012. Ma è tutto il lusso che è la moda che va bene, eh? In effetti appunto anche Tod's più 3,23, certo. Esatto, più 3,23%, forse si scommette che anche dalle sfilate milanesi, che ripeto partiranno domani, potranno emergere novità o comunque indicazioni positive dal settore del lusso. E l'unico bancario che non va bene oggi è la Popolare di Milano, che ha accelerato nel finale meno 1,90%, Pop Milano. Meno 1,90% perché ci si interroga sul futuro dell'istituto. Domani si riunirà il consiglio di amministrazione per esaminare la governance, dovrebbe essere varato il duale, d'altra parte è tutto da vedere. La Popolare di Milano comunque oggi è stata l'unica che è andata giù, l'altra che è andata poco bene, la Popolare dell'Emilia Romagna, che con un colpo di reni sul finale ha chiuso sulla parità. Invece vorrei dire che si è distinta a Mediobanca, anche in questo caso più 2-3%, grande attesa per domani, dove dovrebbero essere annunciate novità proprio nella composizione del consiglio. Chissà che entri, come si dice da tempo, Diego Della Valle. Sì, molti lo danno per un ingresso quasi certo. Sopaf più 11,60 è il titolo migliore assieme alla Lazio più 17, Aeroporto di Firenze più 10,1, Archimedica più 8,90, Fiat dicevamo più 7,16. Peggior titolo Indesit Company meno 7,60, BNP Paribas, pesantissimi cali oggi in Francia sui tre bancari, Crédit Agricole, BNP Paribas e Société Générale, meno 6,56%. E ancora devo dire che sostanzialmente mi chiedete molto dei bancari, vanno tutti bene i bancari tranne la Pop Milano, UbiBanca più 2,80 e ancora Unicredit l'abbiamo già detto, Generali più 3,50, segnalo infine Terna più 3,15, Exor più 2,96, Pirelli più 2,70, Enel più 2,40, bene anche Fiat Industrial più 2,41 e Telecom Italia più 2,3%, ma anche Enel Green Power più 1,85%, Campari più 1,5%. Maria Longo, in una battuta perché abbiamo pochissimi secondi, si sono mossi anche gli altri spread e gli altri CDS degli altri paesi a rischio, Portogallo, Irlanda, si sono mossi Spagna. Tutti oggi, ma alla fine non c'è stato un grande panico sui mercati. Il motivo è che c'è stato nei giorni scorsi, non per Standard & Poor's l'Italia, ma ripeto, il vero punto di domanda, il vero problema sui mercati adesso è la Grecia, è l'incapacità politica europea di salvare o di mandare in default la Grecia, è quello che pesa sui mercati. Standard & Poor's è una ciliegina sulla torta, ma non è la torta. È una ciliegina amara, insipida, vecchia, non ne frega nulla, ma è una ciliegina. Vogliamo continuare a guardare il dito oppure a dire che è colpa del fatto che gli operatori di Standard & Poor's leggano i giornali? Ehi, hey! Hutchison, questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente, niente. GR, torniamo fra 10 minuti, 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo con l'ex numero uno dell'agenzia di rating Fitch per chiedere quanto ci possa essere anche un complotto contro l'Italia. Non vi preoccupate. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Non leggerò più gli sms, alcuni di complimenti, altri di insulti. Ripeto la linea, il problema non è, adesso ne parleremo, quanto sia affidabile Standard & Poor's, che a noi personalmente, come tutte le agenzie di rating, non piace molto per un insieme di conflitti di interesse, ma la reazione di un governo nel momento in cui ti abbassano il debito. Dire il voto sul debito e in cui, nel giorno in cui poi schizzano tutti gli indicatori che misurano il rischio Italia. Dire che è colpa della stampa, perché questi analisti leggono i giornali italiani, che è colpa dei PM, significa guardare il dito e non la luna, a nostro avviso. Poi uno la può pensare come vuole, su questo ci mancherebbe. Vi faccio solo riascoltare, visto che alcuni hanno detto voi fate quello che dice la Marcegaglia. No, noi prendiamo atto che anche gli imprenditori e chi li rappresenta sono critici sulla possibilità che ha questo governo di fare le riforme. E allora ascoltiamo prima Standard & Poor's, il giudizio in conference call, e poi Emma Marcegaglia, così la politica, intesa sia come governo che come opposizione, non la facciamo sentire. We have taken the decision yesterday to change the rating to the downside and the outlook remains. Ieri abbiamo deciso di abbassare il rating e l'outlook resta negativo. Ciò indica che nel corso del prossimo anno potremmo considerare se esiste un ragionevole rischio di tagliare di nuovo il rating. La ragione per l'outlook negativo è che notiamo rischi al ribasso per le finanze pubbliche, a cui si aggiungono deludenti prospettive per la crescita economica. Vediamo un'economia che cresce debolmente. Le previsioni di crescita sono dimezzate da qui al 2014 a un tasso medio dello 0,7%, e c'è stata una revisione fortemente al ribasso. Le cause sono, da una parte, un calo della domanda esterna di beni e servizi italiani sulla scia del rallentamento dell'economia europea e mondiale. Dall'altra parte ci aspettiamo un calo anche della domanda interna per effetto delle misure di austerità che verranno introdotte. Il rating dell'Italia resta un rating molto forte. I nostri studi sui default mostrano che finora sui debiti pubblici non c'è mai stata una insolvenza nella categoria A. Non bisogna fraintendere il significato del declassamento sull'Italia, non significa che riteniamo che l'Italia sia a rischio di insolvenza. Anzi, la nostra valutazione A è di livello elevato e quella di un default resta una possibilità molto remota. Tuttavia, i rischi al ribasso sono ben presenti e se il debito cresce ulteriormente, potremmo tagliare ulteriormente il rating entro i prossimi 12-18 mesi. We could lower the rating again within the next 12 to 18 months. Il governo è in grado domani, nella prossima settimana, di varare una serie di riforme serie, forti, impopolari, che creino una discontinuità chiara sui mercati, oppure questo governo deve andare a casa. Io l'ho detto chiaramente, non ho paura di dirlo, perché è evidente che è così, no? È evidente che è così. E allora cerchiamo di capire di più, anche ricordando, nessuno l'ha mai detto, anzi l'abbiamo spesso criticate, che le agenzie di rating non sono delle verginelle, hanno dei bei conflitti di interesse anche loro, con chi ne ha, è stato il numero uno di Fitch Italia fino a due settimane fa, e mi riferisco a Marco Cecchi De Rossi, buonasera. Buonasera. Allora, visto che lei per quanti anni ha fatto l'amministratore delegato di Fitch Italia? 11 anni, insomma, diciamo che il mondo delle agenzie di rating un po' lo conosce. Prima domanda, è corretto dire che, come ha fatto il governo italiano, le agenzie di rating, in questo caso Standard & Poor's, si sono fatte impressionare, si sono fatte colpire, influenzare dalla stampa leggendo i giornali? Ma le agenzie di rating fanno parte del mondo dei media e sicuramente usano i media anche come fonte di informazione, ma nello stesso tempo sono dei produttori di informazione completamente autonomi rispetto agli altri media. Ma visto che lei l' ha fatto per anni, voi quant'è il peso che voi date a quello che pubblicano i giornali del paese, per esempio, o le televisioni o le radio? Ma guardi, le agenzie di rating tutte hanno una autonoma, come dicevo, capacità di analisi sia tecnico-finanziaria, sia economica, sia politica. Naturalmente si basano anche sulle fonti di informazione che sono i governi nazionali, le istituzioni internazionali che producono dati dal Fondo Monetario all'OCSE, ma ripeto, hanno una capacità autonoma di elaborazione. E dire, come ha fatto oggi il capogruppo del PDL alla Camera, Fabrizio Cicchitto, che la colpa, o insomma pesano su questo giudizio di Standard & Poor's i comportamenti della sinistra dei PM, cioè gli scandali associati ai comportamenti privati del Presidente del Consiglio, è corretto? Ma è un'opinione del curato legittima e autorevole del rappresentante al Parlamento, ma ripeto, in base alla mia esperienza, io ho vissuto direttamente per molti anni il fatto che appunto le agenzie di rating in generale, quindi non solo quella di cui mi occupavo io, ma anche le altre hanno una capacità di valutazione autonoma che tiene conto di tanti fattori, ma ricordiamoci che parliamo sempre di un'opinione sulla probabilità di default, non sulla probabilità di tenuta di un governo o di un altro. Quindi la valutazione sul debito, non sul governo, e quindi sulla capacità di tenuta di questo debito e la qualità di questo debito, non sulla qualità del governo, è corretto dire questo? Sulla capacità di far fronte agli impegni che, di cui appunto il debito è l'espressione primaria per quanto riguarda un'agenzia di rating. Ovviamente per capacità di far fronte agli impegni si intende anche di la capacità di chi governa in quel particolare momento. Sì, però vede, il punto, poi arriviamo anche agli elementi e alle critiche, vedo molti messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che criticano le agenzie di rating. Però restiamo sul punto iniziale, cioè qui è da capire se c'è stato, se nella valutazione di Standard & Poor's e quella che sarà quella di Moody's, poi vedremo Fitch, c'è stata una valutazione sull'impatto della finanziaria e quindi la capacità di ridurre il debito, di sostenere il debito con questo tipo di speculazione, attacco sui mercati, oppure se è intervenuta in maniera molto forte la variabile politica, la debolezza del governo. Ecco, secondo lei, se lei dovesse dare un peso, quanto darebbe al peso della variabile politica in questo momento su quello che è successo ieri notte? Guardi, ritorno a quello che dicevo. La capacità di far fronte agli impegni che un debito pubblico in questo caso richiede è naturalmente figlia in funzione anche della capacità di intervenire da parte di chi ha le leve per intervenire. In questo caso un governo, la sua maggioranza, gli organi parlamentari. Quindi è chiaro che una visione, un'opinione sulla capacità futura di far fronte agli impegni tiene conto di quello che si pensa della particolare maggioranza, del particolare governo di quel paese in quel particolare momento. Ma un peso nel senso statistico del termine, una ponderazione non esiste, non c'è un peso fisso che viene dato a un fattore o a un altro. Ma secondo lei, visto che adesso lei da poche settimane ha lasciato l'incarico di numero uno di Fitch, può parlare tra virgolette anche più liberamente, secondo lei se cambiasse il governo, perché poi la domanda insomma gira e rigira è sempre questa, se cambiasse il governo migliorerebbe il nostro giudizio, il nostro voto, oppure diciamo migliorerebbe in maniera marginale, oppure non migliorerebbe affatto? Lei insomma che idea si è fatta, visto che oltre che aver lavorato 11 anni come numero uno di Fitch è anche un cittadino italiano? Sì, sono un cittadino italiano e un contribuente. Io non credo che dipenda da questo o quel governo l'opinione delle agenzie di rating, dipende da quello che questo o quel governo fanno, dicono che faranno e quanto saranno capaci di rispettare quello che hanno promesso di fare. Ma se lei fosse ancora alla guida di Fitch, andrebbe a rivedere il nostro debito come voto? Guardi, questa è una domanda a cui io non posso dare una risposta. So che tutte le agenzie di rating, quindi anche Fitch, seguono in maniera costante l'andamento dell'indebitamento, l'andamento delle entrate tributarie e tutte quelle variabili economico-finanziarie che hanno a che fare con la capacità appunto di far fronte al debito che un particolare ente, sia lo Stato, un ente locale o un'impresa privata, hanno sul mercato. Cecchi di Rossi, dopo il traffico vorrei però capire anche alcune cose sulle agenzie di rating, perché insomma non sono verginelle, hanno investitori e azionisti importanti che sono anche persone che o fondi che investono. Vorrei capire se non c'è anche così un'azione un po' di concerto. 349-238-6666 per i vostri sms. Il traffico. Allora, di nuovo in diretta, ospite l'ex numero uno di Fitch Italia, una delle tre agenzie di rating al mondo, Marco Cecchi De Rossi. Senta Cecchi De Rossi, non è un po' strano che nel fine settimana Moody's, che doveva darci il suo giudizio sul nostro debito, abbia sospeso tutto dicendo la situazione politica è un po' incerta. Improvvisamente sembra che anche le agenzie di voto si siano messe a valutare il timing, il tempo in cui danno il voto. No, le agenzie di rating hanno delle regole, delle procedure che prevedono la revisione e la rivisitazione dei rating entro periodi determinati, ma non c'è nessuna regola o procedura che dica che debba essere fatto a una data precisa di un particolare giorno, di un particolare mese o di una particolare stagione. Quindi c'è flessibilità nel timing dell'espressione del giudizio ed è, credo, questa anche una conferma del fatto che si tratta di opinioni e che le opinioni si formano sulla base di fatti, e se si ritiene che i fatti non siano ancora completamente definiti si rinvia, e succede in moltissimi casi e non solo per quanto riguarda i rating degli stati. Ecco, ma insomma, quando lei ha visto che Standard & Poor's ha abbassato il voto, che Moody's è intenzionata più o meno a farlo, lei ha detto prima, ma non è il governo, non è il tipo di governo, né il colore, né il governo tecnico, sono le misure che questo governo prende. Ma noi abbiamo appena approvato una legge finanziaria, una seconda, diciamo, revisione della legge finanziaria fatta in tutta fretta, con molte polemiche, ad agosto, proprio perché i mercati stavano attaccando il debito italiano. E insomma, quella legge finanziaria pone un obiettivo di pareggio di bilancio al 2014. Come mai subito dopo, a distanza di pochi giorni, arriva un abbassamento del voto, secondo lei? Cioè non si crede che possa essere messa in pratica? Cos'è che non la... Da esperto, cos'è che secondo lei ha lasciato così perplessi in maniera negativa gli operatori di Moody's e di Standard & Poor's? Guardi, io ritengo che appunto la differenza possa esserci, c'è stata nel passato e c'è ora, sulla credibilità della realizzazione degli impegni che in questo caso questo governo italiano e il Parlamento hanno preso. Possono esserci delle valutazioni differenti, ci sono sul mercato, ci sono fra le agenzie di rating e ci sono anche fra coloro che come lei lavorano nel mondo dei media. È bene che questo ci sia, è bene che questo ci sia, perché non ci sono situazioni come dire, in cui c'è una certezza di risultato. Quello che, ecco, semmai posso segnalare, che è un po' anomalo nel caso italiano, è la differenza che c'è fra il rating, diciamo, migliore o più alto e il più basso. Siamo ormai arrivati a 4 gradi, a 4 notch, e questo francamente è un caso raro, credo, nel mondo. Cioè che tra voi tre, loro tre, perché appunto lei qualche settimana fa è uscito, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, vi siano delle differenze così alte nel voto, perché di solito più o meno, anche per questi parametri simili, le differenze sono uguali. E lei come se lo spiega questa cosa? Appunto, me la spiego con quello che dicevo poc'anzi, che c'è un differente apprezzamento sulla capacità di realizzazione di quello che si è deciso. Ricordiamoci sì che la finanziaria, questa finanziaria come le altre, è stata approvata, ma che rimane da implementarla, e rimane a implementarla sia come emanazione di regolamenti sia come poi applicazione di questi regolamenti successivi. Ma la cosa di questa finanziaria che a lei lascia più dubbi e dove trova che ci sia più discrezionalità, perché insomma l'IVA è già entrata in vigore, il taglio ai trasferimenti alle regioni è un dato di fatto, cioè è vero, manca la crescita, manca tutta la parte che riguarda la crescita, l'abbiamo detto decine di volte, ma sul fronte dei tagli e delle maggiori entrate non mi sembra che vi siano molti margini di incertezza. Cioè lei, se dovesse darmi un giudizio, cosa direbbe? Dov'è il punto più debole? Ma guardi, il punto più debole credo che sia quello della fase o della, come dire, coacervo di misure che dovrebbero aiutare la crescita. Questo è il punto debole dell'Italia, più che il debito e più che qualsiasi altra cosa. C'è un problema di crescita che esiste ormai da decenni, posso dire. Io mi ricordo valutazioni di questo tipo espresse a suo tempo anche da Fitch, ma anche dalle altre agenzie di rating, che una volta analizzato e visto la situazione del debito dicevano: bene, ora perché questa situazione migliori deve cambiare il numeratore o il denominatore a seconda di come si vede, cioè la crescita, il PIL e la sua crescita. Senta, è lì che c'è il punto di snodo. Se domani o nei prossimi giorni il ministro Tremonti ha detto che lancerà un piano per la crescita, ma il governo dicesse: bene, facciamo anche qualche privatizzazione e qualche liberalizzazione, da lì potrebbe arrivare un diverso giudizio? Non credo che di per sé questo potrebbe cambiare i giudizi, perché le misure tipo quella appunto delle privatizzazioni oppure quella di fare un'imposta straordinaria, non hanno un effetto diciamo benefico a medio termine, che è quello che, a cui guardano gli operatori di mercato, se non sono inserite in un contesto in cui si parla anche appunto di miglioramento della produttività e quindi di potenziale di crescita. Un'ultima domanda, dottor Cecchi De Rossi. Molti ascoltatori scrivono, ne abbiamo parlato anche in passato, attenzione, le agenzie di rating non sono indipendenti, fanno parte del gioco, hanno i loro azionisti, che sono spesso fondi comuni di investimento e anche investitori, e ruotano attorno diciamo a un mondo anglosassone della finanza che può avere qualche interesse nel colpire il big fish, il pesce grande, l'Italia, anche per poi andare a comprare pezzi di questo paese a prezzi di saldo. Ma guardi, per quanto riguarda l'indipendenza delle agenzie di rating, credo che sia molto sinceramente, brutalmente, un falso problema. Il problema è che poi ci sia, il fatto che poi ci siano degli interessi sul mercato che vadano in una direzione quale quella lei ricordata, dico, è un fatto appunto, non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. Cioè, secondo lei c'è un interesse di una finanza anglosassone, o più o meno anglosassone, nell'attaccare l'Italia e andare a comprare a prezzi di saldo? C'è sicuramente una parte del mercato che punta a indebolire alcuni emittenti sovrani in questo momento nell'area euro. E non è c'è solo questa, ci sono anche correnti che hanno fatto correnti di pensiero e anche di investimento che hanno altre opzioni, però non si può negare che esista questo tipo di parte è molto attiva. Ma lei, insomma, dove arriva? Dall'America, dalla Gran Bretagna? Ma guardi, oggi è difficile mettere una bandiera, credo sia proprio sbagliato mettere una bandiera sopra queste, perché i fondi, ad esempio, i fondi hedge, tanto per parlare di un'altra categoria recuperata, in realtà se poi andiamo a vedere gestiscono fondi che magari vengono dagli stessi paesi che sono sotto attacco. Quindi a questo punto francamente io ho un po' di difficoltà a mettere la bandiera del nazionalismo finanziario. Però lei dice c'è un interesse a livello internazionale di una finanza, diciamo, chiamiamola così, di matrice anglosassone nell'attaccare l'Italia ed eventualmente comprare o pezzi del paese a prezzi di saldo? Non ho detto matrice anglosassone, che c'è un pezzo di parte del mercato, una parte del mercato, di investitori che ha appuntato a come opzione quella di indebolimento di alcuni emittenti sovrani e sperando anche poi di approfittare di eventuali conseguenze di questi indebolimenti. Una cosa non ci conforta, no, è che quello che lei dice va nella direzione di chi dice attenzione, è comodo anche attaccare l'Italia, ma lei immagina una cosa tipo un complotto, chi evoca il Britannia quando nel 92 poi si decisero le privatizzazioni con le grandi banche d'affari, una cosa del genere? Guardi, la più bella cosa che ho letto recentemente sul complotto, penso di poterlo dire senza fare pubblicità indebita, è l'ultimo libro di Umberto Eco. E quindi? Quindi che il complotto, come dire, fa parte delle forme mentali dell'essere umano. Però questo non vuol dire che ci sia. Ho capito. No, non mi ha fatto stare più tranquillo, nel senso che su questo lei conferma che ci può essere un interesse speculativo nel attaccare questo paese e poi eventualmente andare a fare acquisti a prezzo di saldo, non anglosassone ma generale. E secondo lei, di fronte a questo interesse, cioè noi stiamo fornendo buone motivazioni per essere attaccati, o quando scatta questo attacco a un paese tu puoi rassicurare i mercati quanto vuoi, ma non riesci a fare nulla sostanzialmente? No, cioè non si può fare molto, molto è stato fatto e molto resta da fare. Credo che sia ineliminabile, fa parte del mercato stesso, che di fronte a dei rischi ci siano delle parti che prendono delle opzioni ribassiste, diciamo così, e delle parti che invece prendono delle posizioni rialziste. Spesso poi, fra l'altro, anzi sempre, quegli stessi che prendono queste posizioni si coprono dall'altro lato. Quindi è, come dire, la natura del mercato. Grazie a Marco Cecchi De Rossi, ex amministratore legato da poche settimane di Fitch Italia. Grazie a voi, buonasera. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un'ultima notizia: il ministro La Russa dice bisogna bloccare le ingerenze delle agenzie di rating. Magari questa è la soluzione, bloccare il medico, per quanto medico possa essere criticabile. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.